adesso l'unica cosa che registriamo, certo. Quindi questa cosa rimane. Mi hanno chiesto in tanti anche voi. Hai già capito? Sì, sì, sì. Hai già perfetto. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Cominciamo. Allora, il motivo per cui siamo qua, ok, è principalmente il fatto che ci eravamo dimenticati di compiere 25 anni e nel frattempo abbiamo fatto una festa perché era proprio necessaria farla e ci siamo accorti dopo che sono appunto 25 anni che siamo praticamente l'associazione di riferimento delle anomalie vascolari e questa cosa qua ci aveva già portato a fare un ragionamento sul fatto banalmente di aggiornare il sito. Io ho cominciato a farlo e lì a quel punto mi sono posto il problema di dover condividere questa cosa, perché appunto la comunicazione delle malattie rare e del nostro problema è veramente complessa. Complessa nel senso che è difficile da raccontare per tante cose che sappiamo e per alcune cose che dobbiamo ancora imparare a capire. E appunto, come avete visto, abbiamo fatto del lavoro sulle illustrazioni e sulla grafica, perché io sentivo l'esigenza, che poi è stata condivisa, anche di raccontare in un'altra maniera le nostre vene, i nostri problemi. E infatti appunto abbiamo investito sia tempo che un pochettino di denaro per lavorare con Filippo Toscani, che è un artista di Parma che sta a Madrid, che ci ha fatto le magliette, le illustrazioni e tutto. Se vedete sulla cartolina c'è la spiegazione del perché diciamo abbiamo scelto questo quadro, che comunque, come avete visto in chat, era stato scritto prima cos'era, ne abbiamo parlato in direttivo, e appunto rappresenta la nostra, se vuoi, un po' paura non solo del meriggio, eccetera, ma del fatto che le nostre vene appunto non vengono appunto curate e è un problema avere una vita comunque normale a vari livelli. E quindi abbiamo cominciato a ragionare su questa cosa. Il documento che vedete proiettato, anche se non lo leggiamo veramente, in pratica sono una decina di pagine con cui ho riassunto la storia di ILA. In parte era pubblicata sul sito, in parte l'ho fatto andando a scartabellare delle documentazioni storiche. Banalmente non ho fatto in tempo a fare l'Excel, perché non sappiamo quanto ILA ha reinvestito, perché occhio e croce comunque siamo stati molto bravi in 25 anni. Perché banalmente sono stati impegnati negli anni almeno 60.000 euro per fare il portale di telemedicina, più o meno uguali anche per la biopsia, anche se non è stata finanziata l'ultima tranche, e diciamo che comunque, adesso devo fare bene il conto, però è verosimile che in 25 anni, un po' più, un po' meno, almeno 22-23.000 euro li abbiamo di media investiti nell'anomalia vascolare. Quindi questa cosa siamo stati particolarmente bravi. Ora, in questi giorni, perché lo facciamo oggi? Perché appunto c'è il congresso dei dottori a Milano. Come sappiamo appunto c'è sempre un po' di aggiornamento nelle settimane successive, quindi ora come ora sappiamo un po' cosa bolle in pentola a livello clinico, però dobbiamo aspettare, come dire, l'arena dei dottori ECM che si confrontino per dircelo. Il dottor Vaghi, che è di là contestualmente a parlare, che avrebbe molto piacere a essere con noi, che due giorni fa abbiamo fatto una cena, che in queste settimane ci ha aiutato tantissimo e mi ha mandato tutta la documentazione medica, sta dicendo in questo momento che comunque una tecnica nuova c'è, che è quella che ho rigirato in chat e che si chiama BEST. Cosa è successo? Vedete, ok. È successo qualcosa? Ah, perfetto. Quindi, aspettiamo di vedere che cosa succede con questa tecnica, che appunto più o meno ve l'ho già spiegata, ma praticamente è una tecnica che era stata messa a punto per i tumori al cervello. È una tecnica che utilizza un farmaco chirurgico che in pratica viene iniettato appunto come le nostre scleroembolizzazioni, ma con una macchina esterna che dà delle, diciamo, captazioni magnetiche, fa in modo praticamente che solo in un punto agisca, e quindi magari in quel punto dove noi le nostre anomalie si fanno i loro gomitoli, le loro cose, poi con una macchinina esterna dire lì vai ad aggredire. Questa cosa sembra che sia una bella pangea per noi. Ad ora sono stati finanziati 40 interventi al Burlo Garofano per la pediatria, ma per la prima volta abbiamo una tecnica che andrebbe bene dai piccoli fino agli adulti. Perché uno dei grandi problemi che noi conosciamo è che per la sanità anche italiana funziona che appunto noi a 18-19 anni praticamente poi dobbiamo rispondere, o meglio, chi ci cura deve rispondere a tutta una serie di burocrazie che praticamente ci allontanano dall'accesso alle cure. A essere buoni la possiamo spiegare così, oppure ci possiamo mettere più malizia. Quindi, sicuramente dobbiamo aspettare un attimino di capire se questa tecnica è accessibile o meno. Questa macchina che fa questa operazione costa 250.000 euro, ma la cosa a priori del costo è che è carderabile. Vuol dire molto, è molto spostabile, è una di quelle macchine che non è che sta installata in una sala operatoria. E una clinica privata a Milano già ce l'ha. Le sonde per fare questo intervento costano 2.000 euro, è quello la cosa un po' impegnativa, e capite bene che la medicina sta andando in quella direzione. Quindi magari se prima le macchine costavano 1 milione di euro, e le sonde 100, magari questa cosa si sta un po' evolvendo anche perché proprio sono le macchine della medicina che vanno in questa direzione. Quindi sicuramente non nell'immediato, ma probabilmente per l'anno prossimo avremo possibilità di investire dei soldi e fare delle campagne, eccetera, in questa direzione. Perché in realtà abbiamo cominciato di colpo dopo tanti anni a investire in socialità, in queste cose? Perché, come ben sa la nostra presidentessa, di colpo ci sono arrivati gli arretrati dei 5 per 1000 di 3 anni. Di colpo ci siamo trovati ad avere più di 20.000 euro sul conto. Di colpo eravamo convinti, per un po' di indicazioni semi-erronee che avevamo recuperato, di doverli spendere. E quindi, di colpo, abbiamo fatto tutto questo. Poi ci siamo accorti che potevamo spenderli un pochino in maniera dilazionata, quindi abbiamo mantenuto l'evento, abbiamo mantenuto l'aggiornamento del sito, abbiamo mantenuto le illustrazioni e in più abbiamo mantenuto il concerto, le registrazioni di Michele, perché appunto la musica che le ragazze gentilmente ci faranno sentire questa sera, un pochino la useremo anche sottofondo delle nostre pubblicazioni più avanti. Io non ho fatto pubblicazioni fino adesso, appunto perché mi sembrava giusto aspettare l'Arena ECM. Noi tutti andremo dai nostri referenti, che per lo più sono il dottor Vaghi piuttosto che altri. Abbiamo cominciato a conoscerne anche qualcuno d'altro. Cioè, l'altra sera siamo stati a cena con dei ricercatori di Roma, giovanissimi del campus biomedico. Delle cose si stanno muovendo. E anche tipo si sono interessati anche degli studenti a noi. Però bisogna essere sinceri con noi stessi, cos'è che succede? Cioè, dopo quando questi giovani dottori specializzanti cominciano a lavorare dentro l'ospedale e quindi dentro l'ospedale cominciano i loro dirigenti a fargli i conti di queste cose qua, si spaventano perché la nostra è una malattia povera e quindi tecnicamente anche per una persona giovane specializzanda deve essere veramente molto motivata per capire come operarci. Perché c'è poca possibilità non solo di crescere, ma proprio di lavorare. E quindi, comunque, per me è importante, come lo è stato in queste settimane, che ho scritto a tutti, ho scritto agli studenti, ho fatto un po' di connessione tra i dottori, tra i pazienti in giro per l'Italia e in un certo senso ho provato a riunire un pochino la famiglia, che poi ce lo dirà meglio la Silvia, che è oggettivamente un po' divisa. Non tanto per colpa nostra, ma perché le malattie rare ti portano questo e noi siamo una malattia rara particolarissima, perché appunto per tanti motivi che sappiamo. Al che, a priori di leggere questa cosa qua, questo documento che abbiamo sopra la testa, io fra qualche settimana poi lo dovrò mandare a chi fa il sito. E quindi è importante quello che c'è scritto dentro. Ci siamo già confrontati tanto. Sembra una stupidaggine, ma è delicato tutto quello che si racconta, perché comunque è delicata la nostra storia. Faccio vedere un secondo l'Instagram per dire che l'abbiamo fatto in 2 settimane e ci siamo trovati ad avere pochi meno follower da quella che è l'altra associazione che ce l'ha aperta da una vita, e banalmente ci scrivono da tutto il mondo. Questi, per esempio, sono colombiani. E in pratica cosa stanno facendo? Sono dei cugini che praticamente sono più, diciamo, sono meno vascolari di noi, più arteriosi e più fanno un lavoro più votato all'estetica. Però hanno ragione anche loro, nel senso che questo ragazzo ha messo in piedi un gruppo in giro per il mondo di persone che anche di modelle con la nostra malattia che lo fanno di lavoro. Ci siamo confrontati molto su questo perché, per esempio, ero un po' titubante perché comunque l'ho trovato molto aggressivo, nel senso, dal punto di vista comunicativo. Dovremmo parlare con questa persona che ci scrive tutti i giorni, ci corteggia da tanto e la difficoltà è un po', ma lui lo sa benissimo, di dire ok, per noi il nostro accesso alle cure non è una questione estetica, è una questione di sopravvivenza e di funzionalità. Anche perché appunto oggi Paolo non c'è, ma la cosa che mi ha detto importante da ricordare è che Ila è nata anche per dimostrare che di questa malattia si muore. Di questa malattia si muore. Ok? Ila come Alessandra, eccetera. E quindi la cosa delicata è che, per esempio, quando dovremo parlare con queste persone, anche loro devono accedere alle cure, però pochi di loro, per esempio, hanno una malattia che può in maniera funzionale compromettere la loro vita. Ci ho detto, è importante quello che stanno facendo, perché voglio dire, c'è una ragazza che è qua di Milano che sta facendo la modella come tante altre, ma c'ha questa macchia in faccia e ha 400.000 follower, comunque anche lei lo sta facendo di lavoro. Non è una stupidaggine. Però è un pochino diverso da noi perché comunque noi abbiamo sempre lavorato su una cosa di accesso alle cure e ci è sempre stato detto dalle ASL, eccetera, che rompavamo le palle per problemi estetici, tendenzialmente, perché quando qualcuno non capisce una malattia ti dice quello, ti dice che hai dei problemi psicologici. E questa cosa qui è proprio, è semisistemica per un po' tutte, forse non solo le anomalie vascolari, ma in più non te capiscono, ti dicono brutto e deforme, il tuo problema è lì. È evidente che non è lì e è evidente che però con loro qualcosa dobbiamo spiegarglielo meglio, nel senso che non è che possiamo, come dire, tenerli fuori piuttosto che no. Prego. Avanti. Buonasera. Buonasera. Prego, prego. E quindi quello che un pochino abbiamo in ballo da fare, quindi, è questo documento che racconta la nostra storia, che come sapete non è facilissima, perché oltre ai pazienti ci sono anche i dottori, ci sono le loro storie, quindi questo documento bisogna stare attenti a scriverlo perché potrebbe unire piuttosto che dividere la famiglia di noi malati. Quindi quella è la prima cosa. La seconda cosa è sicuramente fare il sito e riattivarci. La terza è anche aprirci a queste cose e non tenerle totalmente chiuse, però al contempo dire per esempio a queste persone, c'è cioè un lavoro insieme sull'estetica è molto relativo, un lavoro sull'accesso alle cure, se facciamo un evento dove venite anche voi, ok? Buonasera, buonasera, Buonasera. buonasera. Noi Scusate, chi siete voi? siamo del sisma. Mi dici, loro sono i ragazzi che aspettavamo, ok? Applauso. Sì, vi siete persi un pezzettino molto relativo, però ve lo riassumo al volo. Noi siamo 25 anni e dobbiamo chiederci come scrivere questa, la storia dei nostri 25 anni. Non è una cosa indelicata perché se non la scriviamo bene tra malati, tra dottori, tra storie, potremmo creare attriti. È molto importante tenere insieme la comunità dei malati. Dobbiamo aggiornare il sito. E stavamo parlando adesso di questa realtà dalla Colombia che ci scrive, che è nata su Instagram e sta mettendo insieme parecchie persone che pubblicano le loro fotografie su Instagram e alcune fanno addirittura le modelle. Al che arrivavamo alla questione che siamo molto solidali, ma noi siamo nati proprio perché abbiamo dei problemi funzionali che non veniamo operati, e quindi la nostra associazione è nata anche per dimostrare che di questa malattia si muore, e quindi con questi cugini, fra virgolette, non è che non dobbiamo fare cose, ma anzi dobbiamo interrogarci molto a cosa fare insieme, però soprattutto dal punto di vista clinico. Quindi arrivo al punto che prima dei ragazzi del SISM stavo arrivando. Con la dottoressa Regneri, per esempio, gliene parlerò. Fare un evento dove invitiamo un po' questi ragazzi, o addirittura riusciamo a portare qualcuno da lì piuttosto che no, per esempio sulla ricerca genetica, su questo siamo cugini. Ok? Questa cosa è molto importante. E siamo cugini anche, appunto, a maggior ragione che loro stiano in Sud America, piuttosto che qua. Logico che, appunto, sto facendo i conti senza la biologa, la ricercatrice, però avete capito, dal punto di vista sociale e nel gestire i social, se lui mi sta dicendo facciamo qualcosa insieme, ben volentieri, sicuramente non è una sfilata di moda inclusiva, ma però se loro facessero un progetto dove ci aiutano a fare ricerca genetica, io penso che sarebbero soldi ben spesi anche a quel punto fare una sfilata di moda inclusiva. Quindi penso che quello che ci può unire insieme ad altre realtà, come ben mi ha detto Paolo, che oggi non c'è, però sono ormai memoria storica sua, quindi me l'ha ripetuto tante volte, che queste cose sociali devono essere votate poi alla medicina e alla scienza. Quindi questo è il discorso che faremo. Poi non apro la questione del 2026, che già sapete che cercheremo di fare delle vacanze insieme, perché il problema dei problemi è che non ci incontriamo più in corsia Garbagnate, lo sappiamo benissimo, e quindi questa è la prima occasione, ma poi continueremo a rivederci, perché se non ci rivediamo queste cose non accadono. E in tutto questo la dottoressa Baraldini e la professoressa Regneri in realtà sono state molto solidali in SISAV. Questo è per dire che non è che servono divisioni o scontri né nulla, però l'unione, penso, di una famiglia di malati eccetera non può partire se non anche da un ragionamento interno, che adesso è abbastanza necessario appunto per il futuro e banalmente per i ragazzi che avete lì dietro. Che la cosa che non ho detto a voi, scusate, è che la nostra malattia è molto interessante, in tanti di voi si interessano a queste cose. Il problema è che poi, una volta in corsia, per anche la burocrazia, si svela che noi siamo una malattia povera, e quindi una persona giovane che impegna il suo, diciamo, tempo, il suo studio nel capire come operarci, è già successo purtroppo, abbiamo già anche investito tanti soldi che poi sono stati usati in un'altra maniera, si troverà poi a non seguire le anomalie vascolari, e gli converrà, per mille motivi, non solo per pagare il mutuo, andare magari a capire le anomalie vascolari del cervello, perché quello il sistema sanitario te lo paga. È banale ma spietato. Ci ho detto, voi ragazzi che siete giovani, intanto, un po' come ero giovane io al conservatorio o a medicina, uguale, studiate tutto. Dopo c'è una pratica. La pratica, questo è già successo, cioè noi comunque, quant'è? 13 anni fa 50.000 euro li abbiamo investiti per fare un centro che partisse a Modena, c'era una specializzanda, ha fatto tutta questa cosa qui, le loro pubblicazioni non sono nemmeno state accettate in SISAV. Che SISAV è il congresso dei dottori. Quindi niente, questo secondo me è la premessa vera, ok? Dopo, appunto, a Silvia forse l'ha imbarazzo perché manco gliel'ho letta questa cosa qua, quindi abbiamo fatto un bel post, in realtà prendendo anche un pezzettino di verbale, perché appunto la nostra dottoressa Silvia, sono 8 anni, 9 ormai, 9 autorizzati, 8 che è a regime, che è la nostra psicologa. E quindi io, che sono stato, come dire, un paziente un po' anomalo, che li ho sentiti tutti, sono un paziente di Stillo, sono un paziente dei Vaghi, sono un paziente di qua, un paziente di là, ho sentito tantissime campane. E un pochettino nel mio piccolo psicologo l'ho fatto, perché, non, perché mi chiamavano a me. Lei ha fatto tutto un percorso strutturato, però io da settembre, due volte alla settimana, mi sono incontrato con lei a priori dei miei problemi personali, del lavoro, eccetera, perché seriamente ci siamo messi a lavorare su queste cose, di ragionamento. E è bello che ci siamo trovati semi, cioè comunque nel mio piccolo tutto quello che dicevo erano cose erano che hai cose riscontrate. Quindi arrivo al punto che adesso due cose le facciamo dire anche a lei, poi facciamo una piccola pausa e ci ascoltiamo il concerto e aspettiamo le persone che arrivano. Basta. Grazie. Questo serve solo a registrare. Mi ricollego ai 9 anni passati in ILA per ricollegarmi un po' alla storia e spiegare in poche parole come mai era stato voluto dall'associazione l'introduzione di un supporto psicologico e psicoterapeutico, cioè proprio perché questa dicotomia tra la parte biologica, la parte sanitaria e la parte psicologica c'è sempre stata, e quindi tanti malati si sono sentiti spesso dire no, ma di queste cose sono frutto di ansia, di problemi emotivi, quindi parlane in altre sedi. Quindi è nata la necessità invece di integrare e considerare questi due aspetti e di considerare le persone come unitarie. Quindi si è cercato da sempre di vedere le persone malate non solo come malati, ma come persone che vivono in interazione in primo luogo con i propri affetti e con la loro famiglia, perché noi tante volte ci concentriamo a parlare dei malati, ma i malati crescono e vivono insieme a persone e con loro sono su una stessa barca. Mi piace utilizzare questa metafora perché secondo me quando si è sulla stessa barca è vero che ognuno ha dei ruoli differenti, ma se tutte le persone non rispettano il loro ruolo e non collaborano, la barca non va da nessuna parte. Quindi questa secondo me è una parte molto importante. Mi piace ricordare uno studio che era stato fatto in Inghilterra, nel Tamigi, per significare che prendendo questo aspetto, questa dicitura inglese, che vuol dire mettersi nei panni dell'altro, che in inglese viene detto nelle tue scarpe. È stato chiesto quindi a proprietari di scarpe di registrare un discorso nel tempo previsto in cui loro ci mettessero a percorrere un miglio di strada e di raccontare una parte della loro storia. La parte della loro storia potevano scegliere cosa raccontare di sé, se una parte di malattia, una parte della loro vita qualsiasi. E poi veniva chiesto ad altre persone di indossare le loro scarpe, indossare delle cuffiette e percorrere questo miglio di strada ascoltando la storia delle altre persone. Sulla scorta di questo studio, è stato fatto in modo molto casalingo con alcuni pazienti di ILA e alcune famiglie, e sono successe degli incontri molto potenti, molto ricchi, perché effettivamente si perdevano tutti quelle forme che normalmente si creano in una famiglia per quanto riguarda rapporti, autonomie, e si permetteva di capire un pezzettino di una storia che a volte non viene vista in quel modo perché ognuno di noi ha i propri filtri. Quindi queste parti secondo me sono molto importanti, perché nella vita di ciascun malato, e mi ricollego col discorso della paura anche della morte, sia necessario riuscire a trovare uno spazio in cui sentirsi comunque vivi in quel momento, e per vivi intendo con le proprie difficoltà, ma con anche le risorse e tutti gli attrezzi che in quel momento si hanno a disposizione. Quindi, allora, io e questo di parentesi stanno partendo da Milano. Okay. Raffaella e Roberta. Basta. Benissimo. Allora, quello che ho da dire io, che mi sono accorto, oltre a il suo lavoro di psicologia, l'assistenza un po' anche sull'ASL, che questa cosa qui è proprio spesso utilizzata dalle ASL per non dare invalidità anche. E fa molta impressione, quindi il ragionamento mio è che forse un'evoluzione anche del lavoro di Silvia, piuttosto che appunto... Ah, mi sono dimenticato una cosa, ecco, devo fare una parentesi. In tutto questo io sono anche un po' di mesi, che lo sanno, che sto lavorando molto con la Fondazione Vivale del Sud. Quindi ci stiamo proprio alla grande unendo. Cioè, se tutto va bene, io mettessero di qua, la Roberta Manfroni diventa nostra rappresentante in Vascern e io divento loro rappresentante del Sud, perché non ne hanno uno. Quindi è un discorso che comunque tutto lo stiamo molto pensando assieme. Le nostre realtà non si possono fondere, ma è per dire anche loro, Raffaella era una psicologa, hanno una fondazione, ci sono dentro addirittura penso 3 persone stipendiate, ci sono già il servizio civile, ci sono ragazzi come questi del SISM che fanno cose, prendono delle borse, eccetera. Il servizio di psicologia entra e diventa fondamentale dal momento che non ci sono cure in generale e anche in ASL, nel senso che forse una relazione a questo punto, al contrario, per dire, questo qua l'è mia matta. Sì, sono matti quelli che fanno finta di curarlo, ma sì, ok, quelli sono proprio matti da ricudere. E quello un pochino il problema, perché di solito in commissione de ASL la Silvia dovrebbe scrivere, no, questo qua sta proprio male, questo non riesce proprio a fare nulla, e in realtà dovrebbe scrivere, è conciato come uno ma che riesce. È iperdepresso, dovrebbe prendere un treno di psicofarmaci, l'unico problema è la sanità. E questo è il problema, e quindi il mio problema del servizio aumentativo per il nuovo anno, oltre logicamente a sperare che il dottor Vaghi magari faccia un pochino di ambulatorio, che noi possiamo mettere 2 soldini e fare queste cose qua, è che il servizio di psicologia a priori di ascoltare basta, e questo sarebbe interessante che anche la Ari mi dice qualcosa, e è importantissimo. Cioè, voglio dire, la psicologa ora come ora può fare tante cose, il servizio di psicologia può essere non solo un ascolto, può fare relazioni, sì. E al contrario di andare a, come dire che è più grave del dovuto una situazione per colpa della psicologia, del lato psicologico, e dire il lato medico ha aggravato talmente la situazione che una persona diventa quasi, sembra patologica dal punto di vista psicologico, quando è evidente che non lo è, e i capi della commissione fanno a gara a dirlo, perché così non devono sborsare. Anche perché adesso c'è una legge, che è la legge 62 del 2024, che entrerà nel protocollo delle invalidità civili in alcune province, è già entrata quest'anno, poi entrerà in vigore dal 2026 in tutta Italia, dove ci sarà un nuovo modello, che è il modello biopsicosociale, e quindi anche la parte psicologica prenderà anche in sede di invalidità civile, di progetti di vita e di assistenzialismo una parte molto molto importante, ed è fondamentale secondo me lavorare proprio per l'integrazione di questi aspetti, perché una persona può avere 1000 risorse e cercare di stare al suo meglio nonostante abbia delle patologie che effettivamente coesistono in quella persona. E quindi queste cose che stiamo dicendo, poi arrivo al punto che per cercare di unirci io andrò a trovare Vivale, speriamo di fare queste vacanze, ma il protocollo d'intesa sicuramente dal punto di vista psicologico deve funzionare. Non abbiamo fatto in tempo a mettere in connessione la psicologa adesso di Vivale con Silvia, ma perché semplicemente un'altra persona tipo Silvia è stata lì 1000 anni è appena andata via, è arrivata una persona nuova e noi abbiamo fatto questo evento proprio nell'avvicendarsi di questa cosa. Ma come sa Paola, dentro al bilancio che abbiamo pensato di aumentare i soldi del servizio di psicologia, dovrà essere un lavoro comunque in parte di equipe. Assolutamente. Se loro già fanno le loro cose, non le tocchiamo, però è importante che a un certo punto la nostra psicologa e la loro facciano qualcosa insieme e quindi ci sia un progetto comune di che verosimilmente non vuol dire che te segui i loro pazienti, eccetera, però logicamente magari sarebbe bello che si spinga verso almeno una pubblicazione, diciamo, comune. E quindi a quel punto anche al prossimo CISAV faranno fatica se la nostra dottoressa Pagani e la loro hanno qualcosa da dire a non considerarlo. E lì, per esempio, è qualcosa che possiamo fare, perché appunto in virtù anche di quello che sta dicendo, dal cambiamento giuridico, hai capito, i nostri dottori sono sempre stati chirurghi vascolari, quindi proprio tra i più asettici che ci sono, in teoria tra i meno empatici, eccetera. In realtà non è vero, perché sono tutti dei bonaccioni, ma voglio dire, non è loro, e non hanno sempre fatto molta fatica a dire, cavoli, sto facendo un congresso CISAV e CM, se parla anche lei, non è che c'è CM anche quello, direi. Certo. Anzi, è proprio quello il problema, perché loro sono bravi a usare i bisturi e tutte le cose, dopo la parte di relazione lo sappiamo, anche il nostro dottor Vaghi, che gli vogliamo tanto bene, è tanto parco di parole, e forse anche una cosa buona rispetto a chi ne usa troppe. Però, per esempio, la comunicazione per me va sempre un po' filtrata su queste cose così delicate. E quindi penso, e siamo in... Dai che penso, ne abbiamo parlato per mesi, ce l'ha detto i nostri stessi dottori, che intanto investire sulla psicologia è importantissimo. Perché addirittura la dottoressa Baraldini mi ha detto che al Buzzi, anche lì, cominciano a non aver più delle figure di riferimento che c'erano fino a pochi mesi fa. Cioè, voglio dire... Un bambino che nasce ora come ora, addirittura anche al cervello un'anomalia vascolare, al Buzzi non c'è neanche lo psicologo giusto, è quello generico, che prima c'era. Sì. Quindi su queste cose c'è da fare. C'è da fare di mettersi insieme e fare un protocollo d'intesa, e c'è da fare queste vacanze. C'è da dire qualcosa all'estero, perché appunto la comunità... diciamo di quelli dei bit marker, quindi delle macchie di vinaccia, ok? È forte e sta crescendo dal punto di vista estetico. E come abbiamo detto, non è che non siamo cugini, non è che visto che loro non ci muoiono di queste cose qua, non ci dobbiamo parlare. Però bisogna spiegarglielo. E poi comunque, appunto, come dicevamo, probabilmente la professoressa Regneri ci dirà qualsiasi anomalia vascolare importante mapparla. E quindi io vedo in giro delle persone che sono un pochino più sfigate, un po' come noi, che quindi rimangono attaccate, di persone che ce l'hanno un pochino meno, che sperano di dover andare operati tre o quattro volte, una volta ogni tre anni, e avere una vita normale, ma anche queste persone si illudono totalmente, perché il loro problema banale diventa grosso in Italia e in giro. Quindi, come minimo, spingere un pochino tutti a fare le biopsie liquide, belli e brutti, è importantissimo, anche perché la medicina sta evolvendo e i nostri stanno scoprendo che tante anomalie vascolari erano tante altre cose. C'è il Glubran che hanno usato a operare un po' tutti noi, l'ha messo a punto per le emorragie uterine. Ma viene da dire, chissà quante persone sono morte, cioè quante donne sono morte di parto che erano mie cugine de sfiga, e lo stiamo imparando a capire. Quindi anche lì bisogna un po' pensare che c'è comunque soprattutto il tracciamento genetico, il lavoro che sta facendo la dottoressa Regneri è importantissimo, anche se non ci porterà ad avere, per dire, dei farmaci e delle evoluzioni. Questo io, diciamo, con l'anno prossimo e il sito, a priori, che se volete specificare, essere, sono queste le questioni un attimino in ballo. Ascolteremo bene tutti, le altre realtà, aspettiamo che la Silvia parli bene anche con la psicologa di Vivale, però queste sono le questioni che abbiamo in ballo. Sono d'accordo. Non so se la Paola è d'accordo, ineccepibile, ok. E io volevo chiedere all'Aria, appunto, che sta dormendo, però fa niente. No, volevo chiedere, appunto, dal punto di vista una psicologa, ok? Più lei, vabbè, ok, no, tutte e due, una e l'altra, tutte e due. Oltre ad ascoltare, abbiamo detto che può avere un ruolo anche molto attivo quando c'è una carenza di accesso alle cure. E quindi abbiamo detto, nel fare le relazioni, che le relazioni, soprattutto per l'ASL, servirebbero per aggravare una situazione, far finta che sia una cosa più grave perché non ti stanno dando un aggravamento. Ma in realtà la relazione della psicologa per noi dovrebbe dire: la persona non avrebbe problemi, glieli state creando. E infatti lei gli diceva questo, e quindi noi che non abbiamo più possibilità di investire tanto nella ricerca, è importante che investiamo nella psicologia, nel servizio di psicologia, non solo sull'ascolto, sulle relazioni e anche su qualcosa di molto attivo, come sarebbe un sogno accompagnare i nostri malati all'aggravamento della disabilità. È questo che volevo dire, che appunto non avendo i dottori, ci servono le dottoresse psicologhe, perché non è che non è che servono solo ad ascoltare, servono a mediare e rappresentare il problema, perché non è portato avanti dai dottori chirurghi vascolari, perché a priori di loro dovrebbero far quello. Un chirurgo vascolare, cioè, deve essere una persona che non gli balla la mano, che in un certo senso è anche relativamente empatico, perché deve avere il dovuto distacco. E quindi una persona, un chirurgo vascolare troppo empatico, me lo sapranno dire i ragazzi del SISM, la mia non è, cioè, può essere un problema che magari non è la sua specializzazione migliore. Se hai una grossa empatia, magari è vero, è meglio fare il dottore di base, dico io, rispetto a quello. E quello è il ragionamento. Quindi voi a Parma, che vedete un po' di cose, se ci sono servizi di psicologia che vanno un pochino oltre l'ascolto, sono tutte le cose che penso che ci interessano, perché è un laboratorio che dobbiamo un po' mettere in pratica. Qualcos'altro? No. Cose, domande, eccetera? No, basta. Vabbè, posso concludere? Ego, dai, siediti un attimo. Voi dovete stare, no? Ma perché così? No, scusa, perché così si registra anche. No, si dite. Posso solo farvi fare un applauso? No, ah. Vabbè,